someone to care, someone to share lonely hours and the moments of despair. To be loved, to be loved. Oh, what a feeling to be loved. Per lui niente era più importante dei soldi. Someone to kiss. Sognava di diventare milionario e per arrivare più in fretta possibile alla meta decide all'età di 16 anni di lasciare la scuola e mettersi a fare il pugile. To be loved, to be loved. Oh, oh. Dopo un promettente avvio fatto di 12 vittorie su 15 incontri, smette perché capisce che in quel mondo i soldi veri li fanno i pesi massimi e non i piccoletti dei piuma come lui. A king or a queen. Dopo 2 anni passati a servire lo zio Sam in Corea, nel 53 torna a Detroit dove apre un negozio di dischi, il 3D Record Mart, specializzato nella musica che più gli piace, il jazz. L'esperienza si rivela fallimentare. Il pubblico era più interessato al blues e al rhythm and blues, così dopo 2 anni è costretto a chiudere imparando una dolorosa lezione. Il cliente ha sempre ragione. Nel 55, grazie alla sorella Gwen che lavora al Flame Show Bar, conosce il proprietario Al Green, manager del cantante Jackie Wilson, che gli offre la possibilità di scrivere delle canzoni. Il ritmo monotono e ripetitivo del nuovo lavoro, la catena di montaggio della Ford Lincoln Mercury, gli tiene la mente libera e gli permette di perfezionare il suo stile come compositore. Assieme alla sorella Gwen e al suo ragazzo Rockel Davis, scrive per Jackie Wilson Repetit, che diventa un piccolo successo. Per The Black Elvis scrive 5 hits consecutivi, compreso il numero 1 Lonely Teardrops. Lonely Teardrops. Pensava di avercela fatta, di essere finalmente diventato ricco, ma le royalties per quei dischi vendutissimi sono solo di $1,000. Vista la miseria ricevuta, decide produrre le sue proprie canzoni quando conosce William Smokey Robinson, voce principale di un interessante gruppo di Detroit, i Matadors. Robinson aveva scritto una canzone di risposta al Get a Job delle Silhouette, intitolata God a Job. Il pezzo gli piace, così porta il gruppo con il nuovo nome di Miracles in studio di registrazione. Il 19 febbraio del 59, giorno del 18° compleanno di Smokey Robinson, esce il single per la End Records. Il brano vende benone tanto da arrivare nel top 5 rhythm and blues. Ma quando Berry Gordy vede che il suo sforzo è ricompensato con solo $3.19, rimane estremamente deluso. Smokey Robinson gli fa notare che se voleva guadagnare veramente doveva fondare una discografica. Berry prende quelle parole per oro colato e grazie all'aiuto di un prestito di $800 da parte dei genitori fonda la Tammy Records, dalla protagonista del film interpretato da Debbie Reynolds. Ma si accorge che c'era già una discografica con quel nome, così la cambia in Tamla. Il primo disco dell'etichetta, Come to Me, di un cantante locale molto simile a Jackie Wilson, Marv Johnson, presenta il nucleo di un mitico gruppo di musicisti di studio che entreranno nella storia con il nome di Funk Brothers. Mentre la seconda uscita, Merry Go Round, è cantata da Eddie Holland, che assieme al fratello Brian e Lamont Dozier formeranno il team di compositori più prolifico degli anni 60. Come to Me diventa un successo locale e attira le attenzioni della United Artists, che ne acquista il master e i contratti sia di Johnson che di Holland. Quei soldi permettono a Gordy di contrattare Mabel John, sorella di Little Willie, e Barrett Strong, cugino del cantante del gruppo preferito da Smokey Robinson, Nolan Strong and the Diablos. Il primo single di Strong, come altri dell'etichetta, sono un fiasco, ma il secondo tentativo fa centro. Il pezzo prima diventa un successo a Detroit, poi distribuito dalla Chess arriva al secondo posto della classifica Rhythm and Blues. In agosto, Gordy decide di acquistare una casa al 2648 di West Grand Boulevard per trasformarla in uno studio di registrazione e fondare un'altra compagnia discografica. La Tamla si sarebbe occupata dei solisti, mentre per i gruppi, in onore di Detroit, la città del motore, crea la Motown, l'etichetta che dominerà le classifiche per tutti gli anni 60. Il pezzo che mette sulla mappa l'etichetta di Berry Gordy prende il titolo dalla sua grande ossessione, i soldi. Money, that's what I want. Chi c'ha i soldi per ridere e scherzare? C'è chi non ha neanche i soldi per mangiare. We'll be right back. saranno certo ricordati come una delle band fondamentali della fine dei 50, anche perché il loro successo è durato giusto una canzone. Bob Walk and the Rockets si erano formati nel 56 per suonare alle feste del loro liceo a Richmond, in Virginia. Tre anni più tardi, con formazione ampliata a sestetto e il nuovo nome di Rocket Teens, fanno un'audizione per George Donald McGraw, proprietario sia del negozio di dischi a Salem che di una casa discografica, la Mart Records. McGraw rimane impressionato da un pezzo in particolare e decide di pubblicarlo nell'agosto del 59. Il brano, a firma del gruppo, diventa un successo locale. Ma quando Arthur Smith minaccia azione legale contro la band per la somiglianza con la sua guitar boogie, fra i ragazzi scatta il panico. A tranquillizzarli ci pensa il discografico, che offre loro una soluzione semplice. Avrebbe comprato i diritti del pezzo di Smith per evitare loro il processo. Quello che sembrava un favore paterno si rivela una grossa inchiappettata per il gruppo. Per un centinaio di dollari McGraw aveva comprato i diritti e si era attribuito i crediti della canzone. Inoltre, aveva segretamente stretto un accordo con un'etichetta specializzata in jazz e collegata alla mafia, la Roulette Records. Il disco, riregistrato a New York, viene distribuito a livello nazionale e in poche settimane diventa un successone. Per approfittare l'onda, la Roulette vuol far incidere al gruppo un LP, che uscirà nella primavera del 60 e sarà un flop commerciale, ma diventerà con gli anni un disco molto ricercato dai collezionisti. Il disco, con 7 tracce vocali e 5 strumentali, mostra tutta la pochezza tecnica dei Rocket Teens. Proprio per quel loro rock amatoriale crudo e primitivo, alcuni esperti, forse un po' esagerati, attribuiscono alla band la nascita del garage americano. Quel pezzo di musica fatta solo per ballare e divertirsi e con uno dei primi assoli di batteria prende il nome dalle uniche due parole cantate. We'll be right back. rock and roll, bless your soul. Erano già un gruppo vocale ancor prima di nascere. Lo erano dal giorno della proposta di matrimonio fatta da O'Kelly Senior al suo futuro suocero. Aveva promesso al padre di Sally che avrebbero avuto 4 figli maschi e che sarebbero diventati i nuovi Mills Brothers. Se le promesse son debiti, O'Kelly Senior l'aveva saldata. Dei 6 figli, i 4 maggiori, O'Kelly Jr., Rudolph, Ronald e Vernon, erano diventati un gruppo vocale che si esibiva con l'accompagnamento della madre al pianoforte nelle chiese di Cincinnati. La loro reputazione cresce rapidamente, così il loro raggio d'azione si amplia a tutto l'Ohio meridionale e il nord del Kentucky. Ma nel 55 avviene la tragedia. Il 13enne Vernon, il più giovane e talentuoso dei 4, viene investito e ucciso da un camionista ubriaco. L'autista, essendo bianco, viene lasciato andare dalle forze dell'ordine. Per la famiglia, la scomparsa del piccolo Vernon è una batosta enorme. Lo sconforto porta allo scioglimento del gruppo, ma il padre insiste a farli continuare per onorare la memoria del fratello. I ragazzi accettano solo una condizione: smetterla con il gospel e passare alla musica profana, come faceva il loro gruppo preferito, Billy Ward and the Dominoes. Con questa premessa, il 17 aprile 1956, Ronald, Rudolph e O'Kelly, con rispettivamente 15, 17 e 18 anni, provano fortuna a New York. Sull'autobus che li porta nella Grande Mela, conoscono Beulah Bryant, una sottovalutata blueswoman dell'Alabama con un ottimo seguito dal vivo in California e soprattutto New York. Beulah si prende a cuore i ragazzi e grazie ai suoi contatti nell'industria discografica trova loro un ingaggio al prestigioso Apollo Theater. Il repertorio è ancora basato su cover di altri artisti, finché grazie ancora all'aiuto della Bryant hanno la possibilità di incidere per la minuscola Teenage Record. Il loro primo single contiene la lacrimogena Angel Cried sul lato A e la più ritmata The Cool Jumper Over the Moon nel reverso, con un successo vicino allo zero. Firmano poi per la Gone, con la quale pubblicano 2 single di scarso successo, ma di crescente qualità, con pezzi come questa Rockin' McDonald. Passano poi alla RCA, con la quale fanno fiasco al primo tentativo, ma non al secondo. Durante un concerto all'Howard Theater di Washington nell'estate del 59, eseguono una versione di un brano che avevano fisso in repertorio. Lonely Teardrops di Jackie Wilson, un artista per il quale avevano aperto molti concerti e osservato imbambolati come fosse capace di improvvisare e stabilire una connessione speciale con il pubblico. Quella sera Ronald Isley prova a imitare Jackie e quando sente di avere il pubblico in mano inizia a gridare: sapete che mi fate venire voglia di urlare? I fratelli improvvisano uno schema vocale di chiamata e risposta tipico delle chiese e quando la canzone finisce il pubblico va in delirio. Al ritorno dal tour raccontano l'accaduto ai produttori che consigliano ai fratelli di eliminare più elementi possibili di Lonely Teardrops e utilizzare l'idea per una nuova canzone sullo stile di What I Say di Ray Charles. Il risultato è uno dei classici intramontabili della musica, la travolgente Shout. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout, come on now, don't forget to say you will. Myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her, just 'cause she's a living doll. Fra ottobre del 1958 e giugno del 59, Cliff Richard è ospite di varie trasmissioni televisive e recita come il suo idolo Elvis in due film, Serious Church e Espresso Bongo. Take a look at her hair, it's real, and don't believe what I say, just feel. Proprio come il messia di Tupelo, perde la carica ribelle iniziale per dedicarsi a una carriera più docile fatta di un rock decaffeinato e tenere ballate, che gli porterà fama e successo, a cominciare proprio da questa Living Doll, estratto dalla colonna sonora del suo primo film, che schizza in cima alle classifiche. Il suo gruppo d'accompagnamento, i Drifters, subiscono notevoli cambi di formazione. Ian Samuel passa al basso e nella ricerca di un chitarrista pensano fare un provino a Tony Sheridan, ma poi la scelta ricade su Hank Marvin, che aveva appena lasciato i Vipers, uno dei migliori gruppi di skiffle, e un suo amico Bruce Welch. Qualche mese più tardi, Jet Harris, proveniente anche lui dai Vipers, sostituisce Ian Samuel, deciso di abbandonare per una carriera come cantautore e soprattutto come produttore discografico, raggiungendo un grandissimo successo commerciale con A Horse With No Name degli America. So no big hunk can steal her away from me. Infine, Cliff sostituisce Terry Smart, suo vecchio amico e la persona che l'aveva invitato nel suo gruppo e quindi lanciato la carriera, per un altro ex Viper, il batterista Tony Meehan, dando origine a uno dei più grandi gruppi inglesi di sempre, gli Shadows. Il 2 ottobre del 59 esce con il nuovo nome di Cliff Richard and the Shadows, il nuovo single. Il lato A presenta l'innocua Traveling Light, ma girando il disco troviamo l'ultimo brano interessante di Cliff Richard, Dynamite! Quando ho cominciato a usare la dinamite, allora credevo anch'io in tante cose, in tutte. E ho finito per credere solo nella dinamite. Send me love in a package labeled dynamite. I wanna feel it and it buzz when I hold it. That I got a power of perception waiting for you when you come back to your loving baby's arms again. I'm sailing across the stars onto a silvery moon. If you wanna know what heaven's like, you'll be there soon. Well, give me kisses that is open for my very eyes. I know the sight of you can generate a million sighs. I'm all set for detonation. Baby, don't you know what? Well, 3, 2, 1, 0, here I go. A sailing across the stars onto a silvery moon. If you wanna know what heaven's like, you'll be there soon. That is love before my very eyes. I know the sight of you can generate a million sighs. Set my detonation, baby, don't you know? Well, 3, 2, 1, 0, here I go. Sail across the stars into a silvery moon. If you wanna know what heaven's like, you'll be there soon. Package labeled dynamite. I wanna feel any closing when I hold it tight. I got a power high perception waiting for you when you come back to your loving baby's arms again. A sailing across the stars onto a silvery moon. If you wanna know what heaven's like, you'll be there soon. Ho sfilato tanti anni per le strade a ritmo di samba. Ella è mia menina. Ma da quando ascolto Cioccolato Bianco al carnevale ci vado con Smotantes. If I had a way, I'd make you my own, and always you'd be. Era stato folgorato da Hound Dog nell'esibizione di Elvis allo show di Steve Allen nel 56. Da allora Robert Lee Romero decide di provar fortuna con la musica, ma nel Montana, dove i genitori erano emigrati durante la Grande Depressione dal Colorado, era improbabile iniziare una carriera come rocker. Così, nel 58, con soli 17 anni, va in autostop in California a visitare lo zio e tastare l'industria discografica. Porta alcuni pezzi a Sonny Bono della Specialty Records. Il nuovo direttore artistico dell'etichetta, sostituto del grande Bumps Blackwell, rimane impressionato da My Little Ruby, ma la versione è talmente primitiva che gli dice di rifinire la canzone e tornare dopo qualche settimana. Robert però deve rientrare a Billings, nel Montana, per frequentare la scuola. Ispirato dalla musica di Ritchie Valens, con il quale condivide le origini messicane, forma un gruppo che ha un modesto successo locale. Dopo l'incidente aereo del 3 febbraio, il manager del gruppo, Don Redfield, data la somiglianza di Romero con Valens, invia Bob King, manager della scomparsa star del rock latino, un nastro con la musica del suo protetto. King rimane molto colpito e in aprile invita Robert Lee a Los Angeles e gli presenta la madre di Ritchie Valens. La signora Concha lo invita a rimanere a casa sua e dormire nel letto che era stato di suo figlio, rimanendo con la famiglia Valenzuela per 2 anni. Con il nuovo nome di Chan, da Ciano, soprannome affettuoso datogli dal nonno, in luglio pubblica la facilona Hippie Hippie Shake, che vende benissimo sia in patria che in Inghilterra e Australia. 3 mesi dopo registra quel brano che doveva portare a Sonny Bono, una perla chiamata My Little Ruby. So fine. Well, now I come for me, son. uno dei 10 figli dei Reed è Mattis Jane, che come tutti i membri della famiglia deve spaccarsi la schiena nei campi della piantagione di Leland nel Mississippi fin da quando ha 7 anni. Well, now your back don't want to leave me, and I'm not gonna let you stay. Il piccolo Mattis, che tutti chiamano Jimmy, adora in modo particolare la domenica, quando dalla Highway 10 arrivano i grandi bluesmen del Delta a suonare per i braccianti. Di nascosto cerca di imitarli prendendo in prestito la chitarra di suo fratello Joseph. Una sera, mentre strimpella cercando di imitare ciò che aveva sentito, conosce Eddie Taylor, un ragazzo di qualche anno più grande che gli insegna i primi rudimenti del blues. Jimmy si trasferisce prima in una piantagione a Meltonia, dove canta anche in un gruppo gospel della Chiesa Battista, poi a 14 anni a Duncan. È una lite con il padrone che lo insulta e lo prende a calci a convincerlo a lasciare il sud e andare a Chicago per vivere con suo fratello Tommy. Il lavoro alla fornace di un'acciaieria raccogliendo scorie di ferro dalle 11 di sera alle 7 del mattino è infame, ma perlomeno gli dà la possibilità di comprarsi una chitarra, un'armonica e un piccolo amplificatore per esibirsi nelle strade della città. Nel 43 parte militare a Riverside, in California, dove inizia a bere pesantemente. Un brutto vizio che ne condizionerà la carriera dalla seconda metà dei 60. Well, now your back door wants to leave me, and I'm not gonna let you stay. Finito il servizio per lo zio Sam, sposa Mary Lee Davis, soprannominata Mama Reed, figura di fondamentale importanza per Jimmy, coautrice di quasi tutti i brani ma mai citata nei crediti, corista e sussurratrice delle parole delle canzoni all'orecchio del marito quando si presenta in studio troppo ubriaco per ricordarle. Ritornato a Chicago, decide di esibirsi da solo e, siccome la necessità è la madre di tutte le invenzioni, escogita un metodo per suonare chitarra e armonica contemporaneamente. Si fabbrica da un appendiabiti di ferro un sostegno da indossare dietro la testa al quale fissa l'armonica. Un'idea talmente semplice da essere rivoluzionaria. Baby, you know how to go. Durante un'esibizione per le strade della città, ritrova l'amico Eddie Taylor, anche lui emigrato nella città del vento per cercar fortuna. In coppia suonano nel Southside o nella vicina Gary, nell'Indiana, e registrano un acetato in una cabina di registrazione automatica che si trovava in un negozio di dischi sulla 92esima. Con quel disco si presentano alla Chess, ma secondo il polacco avevano bisogno di una band di supporto per avere un sound più aggressivo e non se ne fa niente. L'occasione arriva con la VJ, una delle prime etichette discografiche di proprietà afroamericane e dirette da una donna, Vivian Carter, una popolare DJ che assieme al marito James Bracken aveva fondato la discografica nel 1953. I primi singles passano inosservati, ma con il terzo, questa You Don't Have to Go, Jimmy c'entra il bersaglio. Quello stile semplice e accattivante basato sul boogie e quel canto rilassato e sornione saranno i pilastri di un sound che ne farà uno dei bluesman più venduti e studiati di sempre. Purtroppo, con l'inizio dei 60, i problemi con l'alcol aumentano, interferendo in modo decisivo nello sviluppo della sua carriera. L'amico Eddie Taylor lo abbandona, stanco di lottare per mantenerlo sobrio. Anche Mamma Reed lo manda al diavolo, stufa di fargli da badante. Di lui si ricorderanno solo aneddoti lamentevoli, come quando urina sul vestito di una cantante nel backstage del Teatro Apollo, o quando sviene sul palco nell'attesissimo tour europeo dell'American Folk Blues Festival. Nell'autunno del 59 esce il primo di una lunga serie di successi per il maestro della semplicità Jimmy Reed. Baby, what you want me to do? You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide, run anywhere you wanna let it roll. Yeah. Il rock and roll degli inizi non esiste più. Si era addomesticato grazie a un processo di popificazione che aveva portato alla ribalta gli insulsi teen idols dell'high school. Dall'inizio del 59 e fino alla British Invasion, centinaia di artisti, gruppi nella stragrande maggioranza, provano a tener vivo lo spirito del rock and roll primigenio, cavalcando l'onda di successi strumentali come Tequila dei Cramps, Raunchy di Bill Doggett o Rumble del guitar god Link Wray. Gran parte del merito va al chitarrista twangy Dwayne Eddy, responsabile di aver fatto capire che i brani strumentali potevano arrivare in cima alle classifiche. Per sopperire alla mancanza di un cantante, se ne provano di ogni, a cominciare dall'organo con Happy Organ di Dave Baby Cortez o questa Red River Rock dei Johnny and the Hurricanes. Altri esperimenti sono con la steel guitar, la chitarra tipica del country, con questa Sleepwalk di Santo & Johnny, un duo composto dai fratelli Farina di origine italiana. C'è spazio pure per le percussioni, come i bongos di Bongo Rock, di Epps Preston o il successone di Sandy Nelson, Team Beat, che mette la batteria a fare da mattatore. Fortunatamente, questi tentativi sono figli di un giorno e presto la chitarra torna a prendersi tutti i riflettori ed essere la protagonista assoluta, spesso accompagnata da sassofoni urlanti nell'antesala di quell'etichetta musicale che prenderà il nome di Surf. Fra i primi gruppi dell'inizio dell'epoca dorata del rock strumentale ci sono The Stones, che con la loro Thunder del gennaio del 59 sono fra i primi a rispolverare il buon vecchio rock and roll. Settembre, un gruppo di minorenni newyorkesi, battezzati come The Scarlets, registrano prima di scomparire nel nulla questa elettrizzante gemma intitolata Stampede, uno dei primi esempi di proto-surf. We'll be right back. mese più tardi, provenienti dalla scena del nord-ovest iniziata dai Wailers, The Frantics registrano un pezzo che, vista la tematica, doveva essere lanciato per Halloween. L'orrorifica Werewolf, Lupo Mannaro. Discussi del genere, ce n'è uno di Raton, nel New Mexico, che deve il nome a una versione infinita di Great Balls of Fire, eseguita in un concorso di talenti del dicembre del 57 che li vede vincitori. The Fireballs. Guidati dal chitarrista George Tomsko, il gruppo è una delle tante band delle scuole superiori americane, finché in settembre del 58 il leader prenota un'audizione negli studi di Norman Petty, l'uomo che dal New Mexico aveva lanciato la carriera di Buddy Holly. Con Petty, il gruppo firma un contratto di gestione che permette al produttore di concedere i loro pezzi a varie etichette. Così, sulla minuscola Cap Records, pubblicano il loro primo single, con questo strumentale omonimo, afferma Tomsko, e un debole pezzo vocale intitolato I Don't Know. Le successive registrazioni sono vendute da Petty a un'aggressiva etichetta inglese che si voleva espandere negli Stati Uniti, la Top Rank, con la quale pubblicano i seguenti tre single. Nel primo, dell'estate del 59, c'è un brano intitolato Curious, che piace tanto al capo della discografica. Gli ricorda, non si sa perché, un paesino sulla costa meridionale inglese, così decide di cambiargli il nome e trasformarla in questa Torquay. Il pezzo arriva al numero 39 della classifica pop e stabilisce lo stile del gruppo dominato dalla chitarra di Tomsko. Con il loro terzo 45 giri, entrano oltre che al 24esimo posto dell'Hit Parade, anche nella storia. Lo suonano in TV, prima allo show di Alan Freed e il 4 gennaio del 60 al prestigioso America Bandstand di Dick Clark. Paddy li spreme e li fa registrare più non posso. Due album più un terzo non pubblicato per il fallimento della Top Rank, ai quali bisogna sommare il lavoro come sessionman per i cantanti dell'etichetta o le discusse sovraincisioni degli Apartment Tapes di Buddy Holly. Norman Petty decide poi di commercializzarne il sound inserendo il suo protetto Jimmy Gilmer alla voce. Con il nuovo nome di Jimmy Gilmer and the Fireball raggiungono la vetta delle classifiche con la zuccherosa Sugar Shack nel 63.